Capitolo 22, 5 ottobre. Eppure il mio bicchiere non è colmo solo di dolcezze, vi è anche un'amarezza che non posso fingere di non sentire. Posso convincermi che la dolcezza sia comunque più forte, o che aggiunga alla bevanda un sapore gradevole, ma in ogni caso c'è, e io la sento. Non riesco a ignorare i difetti di Arthur, e anzi più lo amo, più mi preoccupano. Il suo cuore, che ha finora avuto tutta la mia fiducia, è meno generoso e caldo di quanto immaginassi. Oggi poi mi ha rivelato un aspetto del suo carattere che supera la semplice leggerezza e meriterebbe una definizione più severa. Insieme a Lord Loboraff ha accompagnato me e Annabella a fare una piacevole passeggiata a cavallo. Lui era accanto a me, come sempre, mentre Lord Loboraff e Annabella erano poco avanti a noi, presi in una conversazione apparentemente molto confidenziale. Quei due ci supereranno se non stiamo attenti, Helen, ha detto il signor Huntington. Finiranno per mettersi insieme, vedrai, ma certo lui si troverà in un bel guaio quando sarà suo. Si troverà in un bel guaio anche lei se quel che ho sentito su di lui è vero, ho commentato. Non è vero, Annabella conosce la situazione. Lui è convinto che lei sia davvero innamorata, dato che gliel'ho fatto credere raccontandogli che in amore gli interessi non contano nulla. Ed è certo che non lo respingerà solo perché è povero e che anzi lo apprezzi in tutto e non solo per il titolo. Oh, pensavo fosse lui a corteggiare lei per interesse, veramente. No, magari inizialmente sì, ma ormai non più. E se si mette a ragionare sui suoi beni e ricchezze è solo perché sa che, per il bene stesso di Annabella, se non ci fossero neppure quelle, di certo non potrebbe sposarla. La ama, sinceramente. Non credeva che gli sarebbe potuto succedere di nuovo, e invece eccolo qui. Già un paio di anni fa era un passo dal matrimonio, ma la sua promessa l'ha perduta insieme con tutti i soldi. Le cose si erano messe storte a Londra. Lui si era dato al gioco e purtroppo non era nemmeno molto fortunato. Una volta vinceva e 3 volte perdeva. Un martirio che non mi ha mai sedotto. Preferisco spendere i miei soldi per regalarli a imbroglioni e truffaldini. Neppure il facile guadagno mi interessa del gioco. Ho avuto sempre denaro a sufficienza, almeno fino a questo momento, e penso ci sia sempre tempo di trovarne altro quando ti accorgi che quel che hai sta per finire. Però mi è capitato di entrare in qualche sala da gioco e ho potuto vedere con i miei occhi la follia di chi vi è coinvolto. Davvero interessante, in effetti, Helen. Quegli stolti mi hanno fatto molto ridere. Loboraff era fuori di sé, voleva smettere. E poi ricominciava e diceva: questa è l'ultima, ma non ce la faceva. Se vinceva, sperava di poter vincere un altro po', e se perdeva, non se la sentiva di interrompere finché non avesse almeno recuperato quella somma. La sfortuna non poteva certo durare in eterno, e ogni nuova piccola vincita la prendeva come l'inizio di un nuovo favore della sorte, almeno fino a prova contraria. Insomma, era così disperato che noi ci aspettavamo tutti che prima o poi si togliesse la vita. Qualcuno diceva che in fondo non sarebbe stata neppure una grossa perdita, dato che ormai non rappresentava più una ricchezza per il nostro gruppo. Però alla fine ha smesso. Puntò una grossa cifra dichiarando che sarebbe stata l'ultima posta che avesse vinto o perso. Già altre volte si era mostrato altrettanto deciso, salvo poi rimangiarsi la parola. E quella volta non fu diversa dalle altre. Perse. Il suo avversario stava ritirando le puntate. Lui si girò ad asciugarsi la fronte. Io ero lì, lo vidi guardare a terra a braccia conserte e capii benissimo a cosa stava pensando. Era l'ultima, Loboraff. La penultima, mi disse con un sorriso amaro. Poi tornò al tavolo, battendovi sopra il pugno e facendo tintinnare le monete, e gridò su tutta quella confusione che sì, sarebbe stata l'ultima per davvero, aggiungendo una serie di maledizioni a se stesso, se non avesse mantenuto la parola. Raddoppiò la posta e chiese chi volesse giocare contro di lui. Si propose Grimsby e Loboraff lo guardò con odio, giacché Grimsby era famoso per essere fortunatissimo quanto lui per essere sfortunato. E iniziarono a giocare. Grimsby appariva tranquillo e spavaldo, avvantaggiato forse dal tremore e dall'emozione del suo avversario. Fatto sta che Loboraff perse di nuovo. Era distrutto. Perché non fate un nuovo tentativo? Gli disse Grimsby attraverso il tavolo, facendomi l'occhiolino. Non mi è rimasto nulla da giocarmi, replicò l'altro con un pallido sorriso. Ma Huntington può prestarvi quel che vi serve, disse l'altro. No, Ho giurato, non mi avete sentito? Rispose il Loboraf. A quel punto lo presi sotto braccio e lo accompagnai fuori. Era l'ultima, Loboraf? Gli domandai. L'ultima, replicò sorprendendomi. Lo portai a casa, anzi al nostro club, dove gli feci bere tanta acqua e gin finché non mi parve più lucido, o almeno più vivo. Huntington, sono finito, disse al terzo bicchiere dopo aver bevuto i precedenti in silenzio. Ma no, vedrete che non è così. Un uomo può ben vivere senza i suoi soldi, come una tartaruga senza la testa e una vespa senza il corpo. Sono pieno di debiti, disse lui con veemenza. Non riuscirò a ripagarli tutti. Ah, oh, e con questo ci sono uomini migliori di voi che sono vissuti tutta la vita con i debiti, lasciandoseli alle spalle quando sono morti. Non possono nemmeno mettervi in prigione perché siete un nobile, gli dissi offrendogli il quarto bicchiere. Ma detesto l'idea di avere dei debiti, gridò, e non so se riuscirò a sopportarlo. Oh, dobbiamo imparare a sopportare quel che non possiamo cambiare, commentai preparando il quinto. E ho perso la mia Caroline. A quel punto iniziò a lagnarsi perché l'alcol gli stava sciogliendo il cuore. Oh, vedrete, ce ne sono tante altre, gli dissi. Per me c'è solo lei, sospirò affranto, e seppure ce ne fossero altre 50. Come si possono mai conquistare, dico io, senza un soldo? Qualcuna alla fine vi vorrà per il vostro titolo nobiliare, e poi avete ancora la proprietà di famiglia, che resta intoccabile. Già, vorrei poterla vendere e togliermi i debiti. Eppure, disse Grimsby, che era appena arrivato, potreste farlo un altro tentativo. Io non mollerei, se fossi in voi, a questo punto. No, ve l'ho già detto, gli gridò alzandosi e uscendo con passo incerto, per via dell'alcol che iniziava a dargli alla testa. All'epoca non vi era ancora abituato, ma da quel giorno iniziò a bere spesso per annegare i suoi tormenti, e ha davvero mantenuto la parola sul gioco, lasciandoci senza parole, in particolare Grimsby, che non faceva che cercare di indurlo di nuovo in tentazione. Del resto, il nuovo vizio lo angosciava tanto quanto il precedente, poiché quello del bere è un demone che non lascia scampo. Soprattutto perché i suoi amici erano sempre ben contenti di assecondare quel suo insaziabile desiderio. Demoni anche loro, allora! Ho gridato io in preda alla rabbia, senza riuscire più a controllarmi. E hai cominciato proprio tu, a quanto pare. E che altro avremmo dovuto fare? Avevamo buone intenzioni, non sopportavamo di vederlo tanto disperato. Se ne stava lì come un peso morto. Triste, silenzioso, a rimuginare sulla sua tripla sfortuna, sulla perdita dell'amore, quella del patrimonio, sulle conseguenze di quell'ultima serata. Quando invece gli davamo qualcosa da bere, non dico che diventasse allegro, ma quantomeno riusciva a divertirci. Faceva ridere persino Grimsby con quel che diceva, più ancora delle mie battute o delle volgarità di Hattersley. Poi una sera eravamo insieme al club e avevamo appena finito di cenare. Loboraf era stato di buon umore tutto il tempo, aveva riso e cantato con noi, ho applaudito i nostri cori e d'improvviso si mise la testa tra le mani. Cadde in un profondo silenzio e non toccò il bicchiere. Per noi non era una novità, così lo lasciammo stare e continuammo i nostri bagordi, ma lui, di punto in bianco, alzò la testa e ci interruppe nel mezzo di una grassa risata dicendo: Dove finiremo, signori, dove? Ditemi dove andremo a finire. All'inferno, esclamò Grimsby. Per l'appunto, rispose lui. E allora sapete cosa vi dico io? Fece alzandosi in piedi. Discorso, discorso, gridammo noi. Silenzio, Loboraf ci deve dire qualcosa di importante. Aspettò che finissimo di ridere e applaudire e poi disse: Tutto qui, signori miei. Io dico che sarebbe meglio mettere un punto finché siamo ancora in tempo. Parole sante, commentò Hattersley. Fermati, peccatore, riflettici su. Ferma ora il piede, il dito. E in bilico non giocar più sul ciglio del male infinito. Proprio così, disse lui in tono solenne. E se decidete di andare avanti, ebbene, io non vi seguirò. E questo cos'è? Disse guardando il suo bicchiere. Assaggiatelo, coraggio, feci io. Non è che brodo infernale, e non ne berrò mai più un goccio, disse rovesciandolo sul tavolo. Versatevene dell'altro, su, e brindiamo a questo vostro sacrificio, dissi io allora. È veleno puro, commentò guardando la bottiglia. Ho rinunciato al gioco e rinuncio anche a questo. Così dicendo, stava per rovesciare tutto il contenuto sopra il tavolo, quando Hargrave gli prese la bottiglia di mano. «Che siate maledetti, allora!» disse uscendo. «Vi saluto, peccatori!» Così sparì, accompagnato da uno scroscio di risate e applausi. Il giorno dopo ci aspettavamo di rivederlo, e invece non tornò, e trascorsa una settimana cominciamo a pensare che non l'avremmo visto più. Poi una sera si presentò e sarebbe rimasto a sedere in silenzio se non avessimo cominciato tutti a darci da fare, chi a stringergli la mano, chi a domandargli cosa voleva da bere, chi a preparargli bicchiere e bottiglie. Sapevo che niente come un buon bicchiere di acqua e brandy gli sarebbe andato a genio, ma quando glielo offrì mi disse: «Lasciatemi stare, Huntington, e anche voi datevi tutti una calmata. Sono venuto solo per stare in vostra compagnia, senza unirmi ai festeggiamenti, perché non ce la faccio a restare da solo con tutti i miei pensieri». A quel punto si lasciò andare sullo schienale della sedia e noi lo lasciamo in pace, col suo bicchiere di brandy accanto. Grimsby, dopo un po', mi fece l'occhiolino e indicò il bicchiere che era stato vuotato. Mi chiese di riempirlo allungandomi la bottiglia senza una parola. Io gli obbedii, ma Loboraff si accorse che lo stavamo prendendo in giro. Si alzò, mi prese di mano il bicchiere, ne gettò il contenuto in faccia a Grimsby e poi lo lanciò verso di me e se ne andò. «Ti ha colpito in testa, spero?» ho replicato. «No, cara», ha risposto lui ridendo al ricordo della scena. «L'avrebbe potuto fare e mi avrebbe sfigurato se non fosse stato per i miei folti ricci». E così dicendo sollevò il cappello, che mi hanno protetto evitando che il bicchiere si rompesse prima di toccare il tavolo. Poi ha continuato. Dopo quella sera, Loboraff restò lontano da noi ancora per un paio di settimane. A me capitava di incontrarlo di tanto in tanto ed ero troppo buono per volergliene così, come anche lui non serbava rancore nei miei confronti e non evitava di rivolgermi la parola. Tutt'altro, mi seguiva invece, ovunque eccetto che al nostro club, nelle sale da gioco e altri simili luoghi di perdizione, perché da solo si sentiva troppo triste e malinconico. Alla fine lo persuasi a venire anche al club, promettendo che non l'avrei tentato con il bere. E per un po' prese a tornarci, quasi ogni sera, sempre astenendosi da quel veleno puro, come lo chiamava lui. Alcuni membri del club, però, non erano contenti di avere un tale cadavere seduto lì, così, che non solo non contribuiva in alcun modo al divertimento generale, ma anzi gettava una nube pesante su tutta la compagnia e guardava male tutti quelli che si portavano il bicchiere alle labbra. Insomma, alcuni dissero che bisognava espellerlo dal club, se non voleva comportarsi come tutti gli altri. Dissero che la volta successiva gliel'avrebbero detto chiaramente e che se non avesse accettato di stare alle regole sarebbero passati ai fatti. Quella sera parlai in sua difesa, dissi loro di avere pazienza, che se l'avessimo lasciato un po' stare presto si sarebbe ripreso. Di fatto, però, il suo era un atteggiamento alquanto provocatorio perché se da una parte rifiutava l'alcol che gli veniva offerto, dall'altra si portava dietro una bottiglia di laudano, nascosta, a cui si attaccava continuamente. Un giorno esagerava e per 2 giorni vi rinunciava, come aveva fatto con gli alcolici, né più né meno. Poi, una sera, si presentò a una delle nostre solite feste, entrò come un fantasma e andò a sedersi sulla sedia che generalmente lasciavamo libera per lui, che venisse o meno. Si capiva dal suo sguardo che doveva essere preda degli effetti di un'eccessiva dose di quella sua amata consolazione, ma nessuno di noi gli prestò attenzione. Ci limitammo a notare che lo spettro era arrivato e proseguimmo coi nostri divertimenti. Finché di punto in bianco ci fece sussultare, poggiò i gomiti sul tavolo e con grande solennità disse: «Non capisco davvero cosa ci sia di tanto divertente. Cosa ci trovate in questa vita, vi domando? Io non vedo che il buio e una penosa attesa del giudizio e delle fiamme». Spingemmo tutti contemporaneamente i nostri bicchieri verso di lui. Io gli andai vicino e con una pacca sulla spalla lo invitai a bere, dicendogli che dopo un sorso sicuramente gli si sarebbero rivelate nuove prospettive simili alle nostre, ma lui disse che non ne voleva sapere. «Levatemeli da davanti, non ne voglio!» disse. Allora li riallungai ai rispettivi proprietari e notai che Loboraff li guardava con rimpianto mentre si allontanavano. Alla fine si portò le mani agli occhi e dopo 2 minuti disse con voce rauca eppure determinata: «E invece, devo, Huntington, allungami un bicchiere. Eccoti una bottiglia intera, amico», gli dissi passandogli il brandy. Ma forse sto parlando troppo, ha commentato Huntington, d'improvviso notando il modo in cui lo stavo guardando. E va bene, ha detto poi proseguendo. Preso da una smania irrefrenabile, afferrò la bottiglia e la scolò tutta finché non cadde dalla sedia sotto il tavolo, accompagnato da molti applausi. Ne seguì un colpo apoplettico e una febbre alta di una certa gravità. E che opinione ti sei fatto di te stesso a quel punto? Gli ho domandato. Beh, mi sentivo molto in colpa. Andai a fargli visita una o due volte, o meglio due o tre. No, santo cielo, quattro. E non appena fu guarito lo riportai all'ovile. Che intendi? Che lo riportai al club e in virtù della sua debolezza nel corpo e nello spirito gli raccomandai di non farsi mancare un po' di vino, di aspettare, di rimettersi in sesto e poi adottare la strategia del giusto mezzo, ni jamais ni toujours, di non stare a rovinarsi come uno stolto e di non astenersi per forza come un bigotto, ma tornare a divertirsi in maniera normale, di fare come me, perché non ho l'impressione che mi si possa considerare un grande bevitore, Helen. Non lo sono stato mai, né mai lo sarò. Tengo troppo al mio benessere. E so che nessun uomo può eccedere con l'alcol senza passare metà della sua vita in preda alla tristezza e l'altra metà in preda alla follia. E poi la vita, voglio goderla in ogni cosa, e se si sceglie di sposare un solo vizio, tutto questo è improponibile. Per non dire, infine, che l'alcol rovina la bellezza. Ha concluso con un sorriso di autocompiacimento che avrebbe dovuto darmi più fastidio di quanto me ne abbia in effetti dato. E Lord Loborough ha beneficiato di questo tuo consiglio, poi? Bah, direi di sì. Per un po' riuscì a moderarsi e fu un esempio per noi tutti, anche troppo per quelle che erano le nostre sfrenate abitudini. Ma Loborough, purtroppo, non ha il dono della misura. Bastava che pendesse da una parte per aver bisogno di cadere del tutto prima di riuscire a tornar dritto. Allo stesso modo, però, se cadeva, ne soffriva così tanto che doveva perseverare per sopportarne il peso. E così via, giorno dopo giorno, finché la coscienza lo riportava sulla retta via. Eppure, quando era sobrio, angustiava a tal punto gli amici con i rimorsi, i timori, le angosce, che quelli, per non rovinarsi la serata, non avevano altra scelta che roffirgli da bere, vino o qualsiasi altra cosa si trovassero a portata di mano. Non bisognava certo insistere molto, gli bastava un piccolo incoraggiamento. Ma poi finiva sempre per esagerare e tornare a lamentarsene non appena gli passava la sbronza. Un giorno eravamo da soli, io e lui, rimase a lungo con la testa sul petto a pensare in silenzio. E poi mi afferrò il braccio e disse: Huntington, basta, ho deciso. La faccio finita una volta per tutte. Come sarebbe, volete spararvi? No, voglio ritrovare la retta via. No, non mi pare una grande novità. Saranno 12 mesi che la volete ritrovare. Sì, ma voi me l'avete impedito. E sono stato uno sciocco a darvi retta, solo perché non credevo di poter vivere senza di voi. Ma adesso ho capito cosa mi frena e cosa mi serve per essere salvo. Farei qualsiasi cosa per ottenerlo. Ma ho paura di non avere la minima possibilità, mi disse con disperazione. Ditemi, Loborough, di cosa si tratta? Gli chiesi io, pensando che alla fine fosse davvero impazzito. Una moglie. Vivere da solo mi è impossibile, perché la mia mente viaggia troppo e allo stesso modo non posso vivere con voi perché siete schierato col diavolo contro di me. Io? Ma sì, tutti, e voi più di chiunque lo sapete bene. E invece se avessi una moglie con una dote abbastanza generosa da poter pagare i miei debiti, una moglie che mi facesse mettere la testa a posto? Vero, gli dissi. Che fosse abbastanza dolce e buona da farmi venire voglia di restare a casa, far pace con me stesso, ecco, allora io penso che ci riuscirei. Di sicuro non potrei innamorarmi più, ma non sarebbe per forza un male. Potrei scegliere anzi con più lucidità e potrei comunque essere un buon marito. Ma chi potrebbe mai innamorarsi di me? Voi siete bello, affascinante, ebbe la bontà di dirmi, mentre io, Huntington, credete che qualcuna potrebbe volermi in queste condizioni? Oh, ne sono sicuro. E chi? Oh, beh, qualunque donna in là con gli anni rimasta nubile sarebbe ben contenta di. Ma no, no, dovrebbe essere una donna a cui potermi affezionare. Ma non avete appena detto che non vi innamorerete più? D'accordo, mi sono espresso male. Diciamo allora una donna a cui io possa voler bene. Insomma, mi darò da fare per cercare in lungo e in largo per tutta l'Inghilterra. Disse in preda a un impeto di speranza o di disperazione. E comunque, vadano le cose, sarà sempre meglio che autodistruggersi in quel maledetto club. Addio quindi al club e a voi. Quando ci incontreremo sotto un tetto onesto, sarò felice di rivedervi, ma non riuscirete più a tentarmi nella tana del demonio. Gli strinsi la mano, anche se aveva detto delle cose orribili. E fu di parola, comunque, e da quel giorno, da quanto ne so, è rimasto un modello di moderazione. Per quanto, fino a poco tempo fa, non ci siamo visti spesso. Ogni tanto mi cercava, ma più spesso mi evitava per paura che lo trascinassi nuovamente nella tentazione, mentre io, dal canto mio, non lo trovavo più tanto piacevole, dato che spesso cercava di risvegliare la mia coscienza e farmi rinsavire dalla perdizione da cui diceva di essersi liberato. Però, quando ci incontravamo, non mancavo mai di chiedergli come procedessero i suoi sforzi e come andasse la ricerca di una moglie, e lui non aveva quasi mai nulla da raccontarmi. Le madri venivano scoraggiate dalle sue casse vuote e dalla fama di giocatore incallito, e le figlie dalla sua espressione sempre cupa e dall'aria malinconica. Inoltre lui non riusciva proprio a capirle, né possedeva il giusto spirito per emergere. In quel periodo partii per un viaggio nel continente e al mio rientro, alla fine dell'anno, lo trovai ancora scapolo, sebbene avesse perso un po' quell'aria da cadavere. Le ragazze non lo evitavano più. E anzi cominciavano a trovarlo interessante, mentre le madri ancora lo criticavano senza pietà. Su per giù fu quella l'epoca in cui il mio angelo custode mi fece incontrare te, e da quel momento non ho più avuto occhi né orecchie per nient'altro. Contemporaneamente, anche Loboraf ha conosciuto la nostra bella signorina Wilmot, e questo grazie al suo angelo custode. Tanto era affascinante e corteggiata che egli non osò farsi illusioni su di lei. Almeno fino al momento in cui, qui a Stanningley, hanno potuto passare più tempo assieme, e lei, senza avere altri corteggiatori attorno, ha incoraggiato le sue timorose attese. Lui ha cominciato a immaginare un futuro migliore, mentre io ho brevemente oscurato il suo cielo, frapponendomi tra lui e il suo sole, rischiando di farlo di nuovo precipitare nella disperazione. Ma quando poi ho deciso di liberare il campo per dedicarmi a un tesoro ben più prezioso, il suo attaccamento si è rafforzato, così come le sue speranze. Per farla breve, come ti ho già detto, ne è realmente innamorato. Forse inizialmente i difetti che ravvisava in lei lo hanno messo in difficoltà. Ma alla fine la passione, insieme con l'abilità della signora, lo hanno reso totalmente cieco, e ora vede la sua amata perfetta e si sente un uomo fortunato. Qualche sera fa è venuto a dirmi: Huntington, non sono finito. Poi mi ha preso la mano e l'ha stretta forte. Posso sperare in un po' di felicità per me, anche in questa vita. Lei mi ama. Al che ho esclamato: Davvero? Ve l'ha dichiarato? Beh, no, ma non ho dubbi. Non vedete com'è oltremodo disponibile e affettuosa con me? Eppure sa quanto sono economicamente in rovina, ma non le importa. È la creatura più generosa e mentalmente aperta che io abbia mai incontrato. Lei mi salverà dalla distruzione, mi salverà nel corpo e nello spirito. Ha già salvato la stima che avevo di me e mi ha reso 3 volte più buono, saggio e grande di come ero prima. Ah, se solo non l'avessi conosciuta tanto tardi, quanto tormento mi sarei risparmiato. Come posso io meritare una creatura tanto meravigliosa? È il colmo, ti dico. Ha proseguito Huntington, perché in verità quella faina non ama nient'altro che il suo titolo nobiliare e quel simpatico diritto alla proprietà di famiglia. Come lo sai? Dissi io. È stata proprio lei a dirmelo. Mi ha detto: Non ho la minima stima di lui come uomo, ma arrivata a questo punto è necessario che io faccia la mia scelta, dato che se mi mettessi in testa di aspettare quello giusto, finirei per restare nubile a vita, perché vi detesto tutti quanti. Penso che quest'ultima frase non sia poi tanto vera, ma comunque è chiaro che non lo ama affatto, poverino. Credo che dovresti dirlo al tuo amico. Come sarebbe? E mandare a monte in questo modo i programmi che ha fatto la signorina? Ma no, significherebbe tradire la sua fiducia e poi lui morirebbe di crepacuore. E ha riso di nuovo. Non capisco davvero cosa ci trovi di tanto divertente. Io nulla. Mio amore, ora rido per te, ha risposto ancora più divertito. Lo lasciai alle sue risate e con un colpo di frusta a Ruby partii al trotto per raggiungere i nostri amici, dato che fino a quel momento eravamo andati al passo, restando piuttosto indietro. Arthur mi ha raggiunto subito, ma io non volevo parlargli e mi sono lanciata al galoppo. Lo stesso ha fatto anche lui, e non ci siamo fermati finché non siamo arrivati accanto alla signorina Wilmot e a Lord Loboraf, a circa mezzo miglio dal cancello del nostro giardino. Ho continuato a non rivolgere la parola al mio compagno fino alla fine della passeggiata. Pensavo di smontare da cavallo ed entrare in casa prima che potesse offrirmi il suo aiuto, ma stavo giusto togliendo il mio vestito dalla sella che lui già mi aveva sollevata e tenendomi le mani mi ha detto che non mi avrebbe lasciata se non l'avessi perdonato. Non devo perdonarti io, non è con me che ti sei comportato male. Certo che no, non lo farei mai, mio tesoro, ma tu sei arrabbiata con me perché Annabella mi ha confidato di non amarlo. E invece no, Arthur, è l'insieme del modo in cui ti sei comportato nei confronti del tuo amico a farmi dispiacere. E se vuoi che io dimentichi questa faccenda, dovrai andare subito da lui e rivelargli che donna è davvero quella di cui si è così follemente innamorato. Helen, come ti ho detto, a lui si spezzerebbe il cuore. E in più significherebbe mettere nei guai anche Annabella. Loboraf è senza speranza ormai, e se lei continuasse con la sua farsa fino alla fine, è a lei che crederebbe, non certo a me. Può darsi che si accorga di aver commesso un errore nel momento in cui si disamorerà. Per ora, credo, sia meglio che lo comprenda solo gradualmente. Io spero, con questo, angelo mio, di averti persuasa. Non posso rimediare alla faccenda come vorresti tu, ma chiedimi qualsiasi altra cosa e io la farò. Una soltanto, gli ho detto, mantenendo il medesimo tono solenne, che in futuro tu non rida più delle disgrazie dei tuoi amici e che usi l'ascendente che eserciti su di loro per il loro bene e per allontanarli dalle loro peggiori inclinazioni e non per incoraggiarle. Oh, mi impegnerò al meglio delle mie possibilità per ricordarmi le parole del mio severo angelo. E baciandomi le mani attraverso i guanti mi ha lasciato andare. Ho raggiunto la mia camera e vi ho trovato inaspettatamente Annabella Wilmot. Era davanti allo specchio che si guardava, facendo delle moine con l'abito alzato e agitando la frusta dorata. Una bellissima donna, pensai guardandola lì davanti a me, così alta e asciutta, con i capelli scuri, lievemente spettinati dal vento e il volto un poco arrossato per lo sforzo, e gli occhi accesi da una luce insolita. Notandomi, si è voltata e sorridendo mi ha domandato: Helen, cosa vi ha trattenuto così a lungo di sotto? Sono salita per darvi subito la notizia. Loboraf si è dichiarato, infine, e io ho accettato la sua proposta. Non siete gelosa? Certo che no, le ho risposto, e tantomeno lui. Ho anche aggiunto tra me e me: ma quindi lo amate? Certo, Helen, sono pazza di lui. Ebbene, spero che sarete per lui una buona moglie. Ah sì? E cos'altro sperate, Helen? Che possiate amarvi e vivere felici. Vi ringrazio e io spero che siate anche voi una buona moglie per il signor Huntington. E così dicendo è uscita. Ma signorina, come avete potuto parlarle in quel modo? Mi ha chiesto Rachel. In che modo le ho chiesto? Dirle che sperate sia una buona moglie è inaccettabile. Ma è la verità, è quel che spero sul serio. Se è per questo, spero che anche lui sia un buon marito per lei, perché non ne ho sentito parlare tanto bene giù di sotto. Lo so, ho saputo tutto di lui. Eppure adesso è un modello di moderazione e la servitù non dovrebbe affatto sparlare dei padroni. Eh già, avete ragione. Però hanno detto anche delle cose sul vostro signor Huntington. Io non le voglio sapere, Rachel. Sono solo bugie. Sì, signorina, mi ha risposto continuando a pettinarmi. Voi credete a quel che avete sentito? Le ho chiesto dopo un po'. No, niente affatto. Si sa che quando tanti domestici sono riuniti insieme amano parlare dei loro padroni e ce n'è sempre qualcuno che si vanta di saperne più degli altri e azzardano qua e là qualche allusione tanto per farsi belli. Al vostro posto, però, prima di un passo tanto importante ci penserai su. Sono scelte che una signorina deve ponderare bene, quelle del matrimonio. Hai ragione, Rachel, le ho detto, ma ora sbrigati, finisci di pettinarmi. Non vedevo l'ora di congedarla, tanto mi sentivo turbata. Quasi non riuscivo a controllare le lacrime, che già mi salivano agli occhi mentre finiva di vestirmi. Non piangevo per Lord Loboraf, né per Annabella, né per me. Piangevo per Arthur Huntington. 13 ottobre. Sono ripartiti. Anche lui è ripartito. E ora saremo separati per più di 2 mesi, più di 10 settimane. tantissimo tempo senza vederlo, ma almeno mi ha promesso che scriverà spesso e si è fatto promettere che gli scriverò anche io, dato che non avrò di meglio da fare, mentre lui sarà impegnato a sistemare le sue faccende. E a dire il vero, credo che avrò parecchie cose da scrivergli. Ah, il tempo in cui vivremo sempre insieme. Allora sì che potremo parlarci senza usare questi freddi intercessori, carta, penna e calamaio. 22 ottobre. Ho già ricevuto diverse lettere da parte di Arthur. Non sono particolarmente lunghe, ma sono proprio come lui, appassionate, allegre e vivaci. Eppure, perché c'è sempre un ma in questo mondo crudele, a me piacerebbe che riuscisse più spesso a essere serio. Non c'è verso di fargli scrivere qualcosa di posato. Mi domando se sarà così per sempre e cosa ne farò io della mia serietà.